Radio 24 Reportage. Dalla Libia a Pozzallo, così il califfato ci fa partire, di Raffaella Calandra. Il passato ora è in una montagna di sacchi neri, pieni di vestiti laceri. Il futuro ricomincia da una tuta, uguale per tutti, e dalla fila all'interno del centro di accoglienza di Pozzallo. E anche la lunghezza di questa coda, davanti allo sportello per le identificazioni, il segnale di un'emergenza sbarchi diversa dalle altre. I controlli sono maggiori, gli interrogatori più approfonditi, perché maggiori sono i timori per la sicurezza, ora che il traffico di migranti in Libia è nelle mani del califfato, che li fa navigare su barconi fatiscenti nonostante i temporali. Sono gli stessi profughi, tutti provenienti dal centro dell'Africa, ma tutti partiti dalle coste libiche, a raccontarlo. Riportano una situazione molto, molto drastica, incerta, trasmettono tanta paura. Ci sono altri, ci hanno riferito che ci sono altri che stanno cercando per partire nonostante le condizioni climatiche, le condizioni del... Cosa hanno raccontato? Sono stati costretti a partire nonostante il mare? Assolutamente sono stati costretti a partire, e diciamo, per evitare la morte hanno scelto e si sono trovati nella condizione di dover sfidare la morte per evitare un'eventuale morte, come possiamo dire. Cioè, che cosa hanno raccontato gli ultimi arrivati su chi sono gli scafisti e chi gestisce questi e organizza questi viaggi verso l'Italia? Tantissimi di loro parlano di organizzazione già sul posto, già organizzati, già tutto pianificato, centri di raccolta, parlano di case di raccolte, parlano di veri scafisti che noi non vediamo qui, che magari rimangono lì, i veri organizzatori che qui non arrivano. Almeno in 500.000 sono accampati nei principali campi profughi della Libia e almeno 200.000, stimano le forze di intelligence italiane, sarebbero pronti a salpare verso l'Italia. Proprio come questi sudanesi, gambiani, nigeriani soccorsi nel canale di Sicilia tra le onde gonfiate dal maltempo. Sono loro stessi a raccontare a Murad Issa, direttore del consorzio Luoghi Comuni, che gestisce il centro, di tutti gli altri che dall'altra parte del mare aspettano solo di partire. Raramente a febbraio e sotto i temporali c'erano stati anche più sbarchi al giorno in questa estrema periferia meridionale d'Italia, e mai fino ad ora era capitato che motovedette della Guardia Costiera subissero minacce, né che su queste banchine, dove ormai gli operatori sanno riconoscere la nazionalità dei migranti anche solo da uno sguardo, fossero raccolti uomini feriti con colpi d'arma da fuoco. Detto che era stato gambizzato perché non volevano salire sui barconi, si avevano paura, forse per il maltempo. Anche questo è un segnale che qualcosa di diverso sta succedendo sull'altra sponda del canale di Sicilia, e anche questo ora spiega lo sfogo, lontano dal microfono, di un ufficiale della Guardia Costiera. Noi ora non sappiamo cosa troviamo quando usciamo in mare. Non più solo disperati in fuga da guerre e carestie in cerca di una nuova vita, ma casomai anche estremisti armati pronti ad azioni eclatanti, sequestri in mare da esibire come trofei, attentati come sperimentato già in altri teatri di guerra, o casomai terroristi infiltrati tra le migliaia di migranti. Gli 007 ripetono che non ci sono evidenze, che raramente l'ISIS imbarcherebbe propri terroristi su barconi fatiscenti a rischio naufragio, ma vista da questo avamposto d'Italia, la percezione generale è di un rischio concreto, ripetono pure gli operatori, come Francesco Zaccaria, delegato dal comune per il centro migranti. La capienza del nostro centro è di 180 unità, attualmente ce ne sono 270, per cui c'è un 50% in più di capienza, per cui ci siamo un po' arrangiati, mi consente il termine. Che vuol dire arrangiate? In che modo concretamente? Penso che non possiamo garantire a tutti un letto, materassi, coprimaterassi, questi sì, ma non un letto vero e proprio. Non è un problema di numeri per noi, quello che un po' preoccupa è questa storia dell'ISIS, per tutti quei risvolti di queste persone che potrebbero imbarcarsi sbarcare tranquillamente qua, miscelarsi, mischiarsi con tutte le altre persone. Poi... È un aspetto che in qualche modo ho notato, che insomma molti chiaramente sottolineano, nel senso che anche c'è il dovere dell'accoglienza, del soccorso di chi è in mare, ma stavolta c'è anche questa componente di preoccupazione. Sì, è un rischio purtroppo va corso, perché prioritariamente c'è il salvataggio delle vite a mare, però il rischio c'è ed è concreto. Amplificato dall'eco delle onde alte, arriva qua giù anche il monito dell'ambasciatore egiziano sulla possibilità di barconi infiltrati di terroristi. La situazione in Libia sta precipitando velocemente e i primi ad averlo visto, vissuto e poi descritto sono proprio loro. E raccontano con gli occhi spauriti di chi è sopravvissuto, prima alle torture nelle carceri libiche, poi alle onde, raccontano tutto questo. Tantissimi di loro, sì, ovviamente hanno raccontato durante la traversata e soprattutto in Libia, praticamente, dove tantissimi di loro praticamente subiscono violenze, torture, maltrattamenti, quindi e vengono chiusi nei carceri libici, vengono anche, come le ho detto, donne violentate, insomma per adesso ne abbiamo circa 15 donne qui all'interno della struttura che sono arrivate ieri e un po' hanno raccontato un po' di storie un po' drammatici e lì sinceramente noi facciamo subito anche dall'inizio un contenimento dal punto di vista psicologico. Da dentro alla struttura si riesce a sentire ancora il mare, con le sue onde lunghe e la voce arrabbiata di questi giorni. I cancelli del centro di prima accoglienza, che ora ospita il doppio delle persone consentite, finiscono infatti proprio a picco sulle onde del canale di Sicilia in contrada Raganzino. E li vedi questi uomini, tutti molto giovani, gli unici forse a reggere un viaggio così. Incroci i loro sguardi e ti chiedi anche, dopo giorni in balia del mare in burrasca, cosa debbono essere le loro notti dentro questa struttura ancora col fragore delle onde, stesi su precari materassi. Dalla fila di uomini che sembrano tutti uguali con la stessa tuta spunta ad un certo punto anche una bimba con 3 anni di vita e 2 bellissimi codini. Almeno lei sorride in queste stanze che grondano dolore. Un dolore che viene da lontano e che ora non viene stemperato del tutto neanche dalla tradizionale accoglienza di questo piccolo paese del Ragusano. Ora la paura si insinua sulle strade del corso, sul lungomare dove i ragazzi sono abituati a giocare a pallone con i coetanei africani e lascia una coda di insicurezza anche nei bar stracolmi di dolci di ogni genere. Chissà in mezzo a tutti questi immigrati che cosa ci possa essere nel mezzo. In questo momento io la vedo in un modo tremendamente brutto. Prima impauriti dal rischio dell'Ebola, ora spaventati dalla possibilità di violenti infiltrati, gli abitanti di Pozzallo, il comune più piccolo del Ragusano, si sentono soli, in prima linea, davanti ad un'emergenza ancora tutta davvero da scoprire e senza neanche la ribalta di Lampedusa, lamenta con vena polemica l'assessore Francesco Ammatuna, che snocciola spese e risarcimenti. A me risulta che le somme che sono state destinate a Pozzallo sono 500.000 euro dalla regione ed esattamente dell'ottobre del 2014 da parte del governo Crocetta e 500.000 euro sono state destinate al Ministero degli Interni del ministro Alfano, così come si era impegnato alcuni mesi fa quando è venuto a Pozzallo. Che quindi in totale avete avuto 1 milione di euro? Attualmente sì, di cui sicuramente circa 200.000 euro saranno destinati per le spese sostenute per i funerali di circa 55 morti che ci sono stati, compresi quelli degli sbarchi avvenuti di recente. Spero e mi auguro che, pare che ci sia un impegno di un finanziamento di altri 500.000 euro, spero e mi auguro che possa essere destinate al più presto per avere altre... Perché sono finanziamenti che comunque vanno a coprire spese che voi avete già anticipato. Comunque, gran parte andranno con questa finalità. Altre somme possono essere destinate per cercare di individuare quali potrebbero essere le migliorie nei vari settori che possono dare sviluppo anche alla città. Nessuno in questi giorni a Pozzallo sorride, nemmeno il cielo. La bandiera nera del califfato sembra aver oscurato anche il sole in questi giorni di sbarchi, ma pure di bombardamenti e di paure in un paese, la Libia, che da questo avamposto meridionale si può quasi toccare con un dito. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.